Le potenze dei cieli scrollate. Ormai ci siamo, ma occorre fare una premessa. La Bibbia, quale parola di Dio, è ritenuta un testo sacro da molte religioni, tra le quali il cattolicesimo, il protestantesimo, i testimoni di Geova, i mormoni, gli ortodossi e tante altre confessioni di fede, ma seppur vi è una sola Bibbia, ci sono tante interpretazioni del testo sacro. Questa è una realtà che queste confessioni dimostrano, scegliendo ognuna una strada diversa per adorare e servire il loro Dio. Perciò chi osserva come spettatore queste diversità di fedi, le quali tutte si riferiscono alla Bibbia come unica autorità, conclude che è meglio starsene fuori e considerare la parola di Dio un libro impossibile da comprendere. Anche se la Bibbia è un libro da comprendere secondo le regole che la Bibbia stessa dichiara, esso non è poi così ermetico alla mente umana, sia perché Gesù ha detto che i piccoli fanciulli sono in grado di comprenderlo, sia perché lo stesso Dio della Scrittura ha detto: «Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te, non è nel cielo, perché tu dica: chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica, non è di là dal mare, perché tu dica: chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Invece questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Ditti 30.1014. Dunque nessuno dovrebbe avere delle difficoltà ad avvicinarsi alla lettura della parola di Dio. Anche se vi sono tante religioni diverse che scaturiscono o si rifanno ad una sola Bibbia, tutte sono d'accordo che la Bibbia sia un libro oltre che storico, anche profetico. Nessuno mette in dubbio le migliaia di profezie che si trovano nel testo sacro, come nessuno mette in dubbio che Gesù Cristo, entrando in questo mondo, abbia adempiuto a decine e decine di profezie per dimostrare che lui era il Messia profetizzato. E nessuno mette in dubbio che la Bibbia profetizza un altro ritorno di Cristo. Ma non tutti sono d'accordo su quando Gesù ritornerà. Anche se la parola di Dio dice espressamente che nessuno conosce l'ora del ritorno di Gesù, i testimoni di Geova hanno azzardato delle date e per questo nel secolo scorso sono stati svergognati per aver dichiarato l'anno del ritorno di Cristo, che puntualmente non si è avverato, ma questo non toglie il fatto che Gesù dovrà tornare. Il tema del ritorno di Gesù Cristo è sempre scottante, ma questo non ci impedisce di parlarne, perché Gesù stesso ha dato dei segni che bisogna prendere in considerazione, anche perché si tratta di segni che saranno visibili a tutti, anche agli increduli. Il difficile delle profezie non sta tanto nell'individuare la profezia in sé, ma sapere quando questa avviene, perché molto spesso una profezia ha più applicazioni. Ne è un esempio la profezia in merito all'Anticristo. Al tempo degli apostoli si aspettava la venuta di una persona in modo particolare, empia o malvagia, chiamata Anticristo, e i credenti attendevano, pur non essendo a conoscenza di quando sarebbe venuto. Eppure, anche se l'Anticristo era una persona ben precisa, l'apostolo Giovanni scrive nella sua prima lettera: «Fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'Anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora». 1 GV 2.18. Quindi, la profezia in merito all'Anticristo era ben precisa, ma prima che si fosse presentata la persona dell'Anticristo, al tempo degli apostoli c'erano delle persone che già si comportavano come l'Anticristo, persone che potevano essere chiamate anticristi a tutti gli effetti. In questo sta la difficoltà della profezia. Coloro che sono amanti delle profezie di tanto in tanto ravvisano in certi eventi politici o religiosi l'avverarsi di ciò che Dio aveva promesso, ma altrettanto puntualmente ci si rende conto di essersi trovati di fronte solo a figure o prefigure di ciò che dovrà avvenire veramente. Questo atteggiamento non è nuovo, anche perché i primi cristiani pensavano che il ritorno di Cristo fosse imminente e alcuni addirittura sostenevano che Gesù era già tornato. Se non pensiamo che queste persone fossero in malafede, dobbiamo convincerci che comprendere il momento esatto dell'avverarsi delle profezie è veramente difficile, e l'atteggiamento più cauto è essere prudenti piuttosto che categorici. Proprio perché è saggio non essere estremisti, possiamo leggere una profezia che è veramente unica nel suo genere, non solo nell'evento, ma anche perché non può essere applicabile ad ogni momento della storia. Leggiamo questa profezia proveniente dalla bocca di Gesù. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo perché la vostra liberazione si avvicina. Luca 21.2528. Mai come oggi l'uomo ha scrutato il cielo. Mai come oggi l'uomo è in grado di prevedere il corso di certe comete, delle eclissi solari e lunari e tanti altri eventi che si verificano nel cielo. La profezia di Gesù riguarda appunto questi fenomeni celesti e ancora una volta potrebbe essere difficile individuare il momento nei quali si verificano, ma vi è un particolare che ci dice che ormai queste profezie stanno per avverarsi. È vero che molti studiosi ritengono che i segni descritti da Gesù si sono già verificati, ma come potevano le generazioni passate essere spaventate e venire meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo se non avevano gli strumenti adatti per scrutare il cielo? Gli uomini delle generazioni passate potevano essere sconvolte per gli avvenimenti che succedevano al presente, mentre secondo Gesù ci sarà una generazione che sarà terrorizzata per quello che starà per accadere. E chi è questa generazione se non quella del XXI secolo, la quale ha a disposizione una tecnologia così avanzata per prevedere con largo anticipo anche un disastro a livello mondiale? Infatti ho visto un servizio televisivo nel quale erano mostrate le possibilità di anticipare con il telescopio la traiettoria di una meteora e ci si chiedeva quale soluzione adottare qualora questa meteora cadesse sulla Terra. Le conseguenze di questo impatto sarebbero straordinariamente catastrofiche e tutta la popolazione mondiale sarebbe letteralmente terrorizzata dalla paurosa attesa. Senza saperlo, chi trasmetteva questo servizio stava nientemeno confermando ciò che Gesù disse 2000 anni fa. Così la tecnologia moderna aiutando l'uomo nella conoscenza è altresì lo strumento mediante il quale è possibile anche vedere realizzarsi le profezie annunciate migliaia di anni fa. Ma l'uomo incredulo del XXI secolo non è preparato per queste cose. Il benessere e le comodità non lo aiutano per nulla ad eventi dolorosi su scala mondiale e lo si vede come reagisce quando viene annunciato anche un solo sintomo di difficoltà atmosferica. Cosa farà quando i giudizi di Dio inizieranno a compiersi? E una domanda in fondo formale, perché nel libro dell'Apocalisse viene descritta la reazione degli increduli nei confronti di una grandinata. E cadde dal cielo sugli uomini una grossa grandine dal peso di 50 chili. E gli uomini bestemmiarono Dio per la piaga della grandine, perché era una piaga veramente grande. App 16:21. Una descrizione del genere forse 2000 anni fa faceva sorridere. Ma noi sappiamo che la coda di una cometa può produrre questo fenomeno. Ho ancora presente quando annunciarono per televisione che la luce della luna in una certa serata avrebbe brillato in modo particolare ed io, guardando dalla finestra del secondo piano, potevo distinguere addirittura l'erba per terra. Rimasi stupefatto. Gli uomini del XXI secolo possono prevedere tante cose, ma cosa succederà quando gli uomini annunceranno qualcosa di molto più serio? La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà 7 volte più forte, come la luce di 7 giorni. Nel giorno in cui l'Eterno fascerà la piaga del suo popolo e guarirà la ferita prodotta dalle sue percosse. Is 30:26. Questo è un evento, ma ve ne sarà anche un altro tutto opposto. Ecco, il giorno dell'Eterno viene, giorno crudele, di indignazione e d'ira ardente, per fare della terra un deserto e sterminare da essa i peccatori. poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà più la sua luce. Isaia 13.9-10. Sarà drammatico vedere la luce del sole 7 volte più potente. Meno, e questo è facile comprenderlo con il buco nell'ozono, meno, ma non lo è meno. Quando il sole si oscurerà. Ricordo ancora quando nel 1981, se ricordo bene l'anno, un mattino, d'estate circa alle ore 8:30 venne un'eclissi di sole. Ebbe una sensazione di paura e di terrore che ancora oggi ho presente. Perché ricordare queste verità? Perché ricordare che le potenze dei cieli verranno scrollate? Non è per fare del terrorismo, anzi, è per dare forza e coraggio a chi ha posto fede in Cristo. Infatti, il profeta Geremia, che di cose funeste ne aveva preannunciato per i suoi contemporanei e per noi oggi, disse: «Così dice l'Eterno, non imparate a seguire la via delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni che ne hanno paura». DR 10.2. Ecco perché la parola di Dio profetizza con molta schiettezza e con particolari, a volte inquietanti, certi eventi atmosferici che possiamo definire catastrofici, non per fare paura o creare terrore, ma per dare una consolazione, perché quegli eventi che gli uomini potranno anche prevenire sono solo un annuncio che Cristo sta per tornare per regnare sulla terra affinché ci sia pace e serenità in tutto il mondo. Certo, noi vorremmo che la pace e la serenità venissero senza tanti traumi, ma poiché la malvagità degli uomini sarà giunta al colmo, occorrerà una mano forte e una decisa azione da parte di Gesù Cristo. L'intervento di Cristo farà scrollare le potenze dei cieli, ma lo scopo principale sarà quello di far scrollare i cuori induriti per condurli al Dio trino delle Scritture. E allora, e solo allora, i credenti in Cristo saranno tutti consolati. Giugno 2007, Ellero.